Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus Meassa e Larosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Distanza, Marco Lombardo è sempre il solito burlone. Facciamo partire stamattina la trasmissione con una pentola dove c'è dell'acqua che bolle. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Due di Denari. Cosa bolle in pentola? Bolle in pentola il decreto rilancio, un tema che stamattina viene affrontato con molti dettagli dalle Sole 24 Ore e che ci dà il pretesto di far partire anche il programma questa mattina. Grazie intanto a Carmelo Lauricella in regia, insieme a Marco Lombardo che è il badante, come lo chiama Mauro, in remoto come badante di prossimità. Quest'oggi abbiamo Danilo Vitrani. Non c'è Mauro Meazza con me, lo salutiamo, non c'è ma c'è, e adesso vi sveleremo in che modalità, perché siamo partiti con questa pentola che bolle con il suo bollore, perché appunto intanto volevamo ricordarvi, come ha già fatto ampiamente questa mattina Simone Spezia con la rassegna stampa, che sarebbe pronto il decreto rilancio. Peraltro ieri sera il ministro dell'economia Roberto Gualtieri era da Fabio Fazio e si è portato anche il faldone enorme che contiene tutti i provvedimenti che sono appunto previsti per poter sostenere una sorta di rilancio economico, per quanto sarà possibile far ripartire l'economia in questo paese fino a quando non debelliamo completamente tutto il contagio. Certo che avremo ancora un po' di difficoltà, ma in ogni caso insomma lo Stato è pronto a mettere sul piatto un pacchetto molto importante. C'è la rata IRAP di giugno che potrebbe essere cancellata per le imprese che hanno subito rilevanti perdite di fatturato, un taglio di 600 milioni per le bollette elettriche, bonus affitti dalle botteghe agli alberghi per chi ha un volume d'affari fino a 5 milioni, e poi si interviene sulla famigerata IVA, sulle mascherine, guanti, ventilatori, valvole, tutti i dispositivi di sicurezza. L'IVA dovrebbe essere azzerata fino a tutta la durata dell'emergenza sanitaria, poi ridotta dal 22 al 5%. C'è il bonus sanificazione ambienti di lavoro fino all'80% per spese fino a 80.000 euro. Insomma, è un pacchetto molto importante. Credo che sia un provvedimento che ha più di 250 articoli e quindi il nostro Mauro Meazza avrà di che divertirsi nelle prossime settimane. Intanto lo salutiamo se ci sta guardando dal Facebook. Caro Mauro, ti ritrovo domani qua, tu sarai qua e io sarò a casa, appunto ripristineremo la nostra distanza, il nostro distanziamento. Comunque, a parte questo, perché abbiamo voluto partire con questo argomento? Perché fra i vari provvedimenti previsti ci sarebbe anche il nuovo super bonus lavori in casa, un super bonus che irrompe, è proprio il caso di dirlo, nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, e proprio mentre molti cantieri cominciano a rimettersi in moto, chi ha in programma una ristrutturazione edilizia importante potrà considerare anche questa variabile in più, la nuova detrazione del 110% inserita nel menu del decreto rilancio che il governo sta per varare. Allora, questa mattina il Sole 24 Ore ne parla diffusamente a pagina 7. Lo descrive almeno nei dettagli che si hanno fino a questo momento, fino a quando noi non lo vedremo nero su bianco con Mauro, come è nostra abitudine. Come sapete, non andiamo a raccontarvi di anticipazione di provvedimenti, noi andiamo a spiegarvi come funzionano le cose non appena le abbiamo concretamente tra le mani, ma il punto è che già molti ascoltatori ci stanno scrivendo chiedendoci come funzionerà, e abbiamo avuto anche questa simpatica mail di un ascoltatore questo weekend che ci ha chiesto: non ho capito bene come funziona, significa che è lo Stato che mi paga interamente il lavoro nel caso io dovessi rifare un lavoro importante nel mio appartamento, o addirittura se nel condominio fosse previsto un lavoro molto rilevante, è lo Stato che si incarica di tutto il pagamento? No, funzionerà esattamente come funziona per tutti gli altri pacchetti che già conosciamo. Ci dobbiamo incaricare noi di sostenere il pagamento, dopodiché in dichiarazione dei redditi questa sarà più leggera perché lo Stato ci alleggerisce quella parte. E quindi questa è la modalità con cui funzionerà, ma se volete saperne di più è molto ben dettagliato il pezzo scritto stamattina da Cristiano Dall'Alba dell'oste Giuseppe Latour, che ci racconta proprio come funzionerà questo super bonus al 110% e peraltro come interagirà anche con tutti i vecchi sconti fiscali che già sono in vigore da tempo, appunto, che riguardano le ristrutturazioni edilizie, la riqualificazione energetica degli ambienti, la manutenzione straordinaria dell'immobile nel quale abitiamo. Peraltro, per il super bonus al 110%, siccome riguarderà lavori importanti, è chiaro che siamo anche in attesa di avere una lista dettagliata dei lavori previsti. Si partirà presumibilmente dal 1 luglio, ma anche questo appunto è ancora tutto nell'ordine delle indiscrezioni, delle anticipazioni che non abbiamo con certezza, ma è importante sapere anche come funzionerà, perché se riguarderà lavori condominiali di una certa entità è chiaro che si dovrà passare per tutta la questione delle assemblee condominiali, per cui non è proprio un meccanismo facile quello che è destinato a partire, ma in ogni caso lo sconto è estremamente generoso, per cui siamo qua in attesa di capire come funzionerà insieme a tutti gli altri provvedimenti previsti che ovviamente vi racconteremo nel dettaglio. Vacanze in Italia fino a un bonus, con un bonus fino a 500 euro, e poi arrivano i 1000 euro in un'unica tranche per colf e badanti, arriva anche l'indennizzo per abbonamenti autobus e treni, e quindi vi racconteremo tutto non appena avremo il provvedimento nel dettaglio. Che cos'altro bolle in pentola però? Bolle in pentola anche il BTP Italia. Arriva la 16ª edizione, il collocamento parte lunedì prossimo e come promesso noi siamo pronti con 2 puntate a raccontarvi tutto il dettaglio di questa operazione molto importante, soprattutto è molto speciale perché la finalità è speciale. Tutto quello che verrà raccolto sarà destinato proprio a finanziare l'emergenza sanitaria e tutta la ricaduta economica che questa sta generando, e quindi è una operazione straordinaria su cui il tesoro fa molto affidamento sul pubblico retail, perché per 3 giorni questo titolo sarà totalmente a disposizione del piccolo risparmiatore e quindi saranno accontentate tutte le richieste che dal pubblico retail arriveranno. Sì, il collocamento ci sarà da lunedì a mercoledì appunto per il piccolo risparmio, per il mondo dei piccoli risparmiatori, poi nell'ultima giornata come al solito ci sarà la fase dedicata agli investitori istituzionali. Quest'anno in questa emissione, che come vi ricordavo è la 16ª, ci sono delle caratteristiche un po' diverse rispetto alle operazioni del passato, e questa mattina torna Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia, ad anticiparci di nuovo tutti i dettagli di questa operazione così importante e tutte le aspettative che il Tesoro ha rispetto appunto anche a come sarà accolto il nuovo titolo dal mercato. Avremo anche un altro ospite, Carlo Benetti, autore della newsletter L'Alfa e il Beta, market specialist di GAM Italia. Con lui faremo anche un pochino di così cronistoria di storia economica rispetto a come a che tipo di aspettative anche ci possono essere intorno ad un'operazione di questo tipo, considerando i bisogni del debito pubblico in questo momento. E quindi insomma tante cose interessanti da raccontarvi. Se volete saperne qualcosa di più, peraltro vedo che ci sono già delle domande da parte di alcuni ascoltatori, 800 24 00 24, oppure potete intervenire anche con la modalità del messaggio 349 238 6666, è il modo con cui riceviamo i vostri sms, riceviamo anche i vostri messaggi su WhatsApp, mandateceli anche vocali ovviamente sul tema di questa mattina, ma anche sugli altri temi che vi piace affrontare generalmente con i vostri amici di Due di Denari. Adesso partiamo con la prima rubrica del lunedì, Meteo Borsa. Allora, il tempo questa mattina in borsa non era male in apertura, adesso vedo già che i listini continentali hanno cambiato idea, partiti tutti benino sulla scia di una serie di notizie positive, se possiamo trovarne almeno sui mercati in questi giorni. Adesso c'è già un cambiamento di idea, anche dalla Cina sono arrivate chiusure miste, Hong Kong ha guadagnato 1,5 punti, Shanghai invece in negativo. C'è una buona notizia che è arrivata dall'Asia questa mattina, riguarda il mercato automobilistico che in aprile è stato di nuovo in calo ma molto meno del previsto, e quindi c'è qualche segnale di ripresa delle vendite, delle immatricolazioni nel settore auto appunto in questo continente, sul quale facciamo molto affidamento per una ripresa economica mondiale. Insomma, sarà la Cina a trainarci sicuramente nella fase imminente. Parigi -0,8%, Francoforte -0,29%, Londra -0,23%, resiste ancora Milano, guadagna lo 0,18%. Milano ha avuto venerdì sera l'atteso verdetto di Moody's, in realtà non è arrivato perché l'agenzia di rating ha detto: sapete che c'è, io il giudizio lo emetto fra qualche mese a novembre, per adesso lascio stare, perché in questa condizione economica, forse non è neanche corretto dare un giudizio in una condizione del tutto anomala. Buongiorno a Laura Tardino, Head of Institutional Business Development di Aberdeen Standard Investment. E qua la chiudo con la carica, dottoressa Tardino, buongiorno e bentrovata. Buongiorno a tutti. Allora, che tipo di sveglia suonano le borse questa settimana? Abbiamo detto venerdì tutto abbastanza positivo, abbiamo avuto anche il dato drammatico della disoccupazione americana. Non si era mai vista una situazione dagli anni della Grande Depressione e a gennaio eravamo, per quello che riguarda la disoccupazione americana, ai minimi da 50 anni a questa parte. Lo sappiamo bene, nel giro di due mesi il mondo si è letteralmente capovolto. Quali sono i segnali che vede questa mattina sui mercati, Tardino? Direi che proprio l'apertura e il cambiamento, direi abbastanza veloce, di quella che è la traiettoria dei mercati europei questa mattina, che si mettono l'incertezza rilarga in questo momento, soprattutto sull'outlook. No, Tardino, la sentiamo malissimo, allora io credo che adesso con Danilo ripristiniamo immediatamente il collegamento telefonico. Lo sapete che c'è la maledizione dei collegamenti e queste sono state giornate in cui tra me e Mauro in realtà anche in remoto andava molto meglio, merito ovviamente di tutti i ragazzi che ci aiutano a distanza, Sandro Fortunati, Danilo Alicino e Michele Previato, appunto, che sono sempre lì pronti ad intervenire nel caso in cui avvertano che il collegamento non funziona. Con il collegamento telefonico di Laura Tardino dobbiamo fare nella consueta modalità, chiudere il telefono e ripristinare appunto il numero. Vediamo se Danilo ci è riuscito, ce l'abbiamo. Tardino? Sì, mi sentite meglio? Molto meglio, riprendiamo. Ok, sì, stavo dicendo che sicuramente sui mercati c'è molta incertezza per quello che riguarda la lettura dei dati pubblicati, insomma, nei prossimi giorni. Il problema è proprio relativo al fatto, insomma, che ancora molta incertezza su quello che potrà essere l'impatto economico della pandemia. I mercati però nelle ultime settimane sembra aver imparato questi dati e sono andati, direi, un po' oltre. Ci sono stati dei recuperi significativi nell'ultimo mese di tutte le piazze finanziarie, quasi a pensare, a far credere che la pandemia non esistesse. In realtà non è così, sappiamo tutti che ci sono appunto dei forti impatti economici. Quindi a questo punto i mercati, proprio un po' insicuri di quello che potrebbe accadere, no, dal punto di vista economico, probabilmente, insomma, aspettano, stanno un po' lì alla finestra, dopo, ripeto, i rialzi significativi che ci sono stati nelle ultime settimane. I dati sono molto incerti, anche il dato di stamattina della Cina in realtà testimonia un buon mese di aprile rispetto all'aprile dell'anno scorso, ma non dimentichiamoci che anche in Cina, così come nel resto del mondo, il settore dell'auto è previsto in fortissimo calo quest'anno. Si parla, diciamo, di un calo delle vendite di auto tra il 15, quindi meno 15 e meno 25%. E per la Cina, tra l'altro, questo sarebbe il terzo anno consecutivo di perdita, diciamo, nel settore auto. Il rimbalzo è sicuramente un buon segnale. Ricordiamo che la Cina è stato il primo paese a entrare nella pandemia, è stato o sarà probabilmente il primo paese anche a uscirne, quindi per certi versi i dati positivi che arrivano dalla Cina sono giustificati proprio dal fatto che in qualche modo, insomma, stanno venendo fuori prima di noi, appunto, dalla pandemia. Mm-hmm. Però ripeto, è un dato mensile che non credo verrà appunto confermato a livello invece annuale. Tardino, la sento per qualche minuto, la sento benissimo, qualche volta poi ci sfugge, ci riprovo con un'altra domanda, vediamo se con la prossima ci va meglio. Siamo anche nel pieno della diffusione dei conti del trimestre per tutte le società quotate e siamo lì un po' tutti appesi e facciamo una verifica molto accurata rispetto a quanto business già è andato perso a causa della pandemia. Qual è in questo momento la situazione complessiva che avete avuto modo di analizzare? Quali società ne stanno venendo fuori al momento ancora meglio e quali, a parte le compagnie aeree, il settore turistico, che già sappiamo che sono i comparti praticamente in ginocchio a causa di questa crisi, ma quali altre società tutto sommato sono riuscite a sopportare meglio del previsto questa nuova condizione? Sì, anche la reporting season americana, chiaramente soprattutto quella americana, ma direi poi, insomma, un po' in giro per il mondo, quindi anche in Europa, sta confermando le difficoltà economiche chiaramente che la pandemia ha scatenato. Al momento l'anno previsto in calo ormai di oltre. Tardino, guardi, proprio il collegamento telefonico è proprio complicato. Pessimo. Questa mattina, sì, non ce la facciamo, non so per quale motivo, ci siamo sentite anche prima e funzionava tutto regolarmente, facciamo un terzo tentativo, Danilo, e dopodiché se va male anche questo andiamo avanti con le altre notizie e troveremo il modo appunto di sentirci con Laura Tardino sicuramente in un'altra puntata, non mancheranno le occasioni, vediamo un po' il solito chiudi e ripristina il numero telefonico, insomma stagione di trimestrali in Italia. Oggi peraltro diffondono i dati Brembo e Finecobank, che sono due grandi aziende, una operante nel settore dell'investimento e del risparmio. Il titolo peraltro sta andando bene in questo momento, più una 18%, non vorrei anticipare troppo perché fra 6 o 7 minuti abbiamo l'aggiornamento appunto di borsa proprio che ci racconta la giornata. Lo spread BTP e Bund 240 punti base, si era aperta meglio, la seduta adesso ha avuto anche un nuovo appunto sussulto verso l'altro. Facciamo così, Danilo, salutiamo Laura Tardino, non importa, le cose essenziali le abbiamo dette, insomma abbiamo fatto un po' di analisi sulle ragioni per cui tutto sommato il mercato viaggia in positivo e si guarda con grande forza alla ripresa, alla fase 2. Il mercato come sempre anticipa le notizie e guarda oltre la singola giornata. Naturalmente questa è una settimana in cui statistiche particolarmente importanti non ne abbiamo, ci sono due banche centrali che si riuniscono, quella della Nuova Zelanda e il Messico, quest'ultima proseguirà nella politica di taglio dei tassi come stanno facendo un po' a livello internazionale, e questo è un po' il punto della situazione. Qualche notizia in breve e poi ci ritroviamo. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo Meather O'Shani. Le mascherine a prezzo calmierato di 61 centesimi di euro, cioè 50 più IVA, si trovano solo in una farmacia su 4. Questo è il risultato di un'inchiesta di Altro Consumo in 10 città italiane. Calano però contestualmente i prezzi dei respiratori FFP2 e delle mascherine lavabili. Secondo l'indagine, svolta in 200 fra farmacie e parafarmacie e in 60 supermercati di 10 città italiane, le mascherine a prezzo calmierato di 61 centesimi si trovano solo in una farmacia su 4 e quindi circa il 26% del campione. In linea generale la disponibilità di mascherine chirurgiche e simili sarebbe peggiorata rispetto a 2 settimane fa, erano presenti in 2 farmacie su 3, quando reperibili le chirurgiche hanno un prezzo appunto di 61 centesimi di euro, solo in 5 farmacie sono stati trovati dispositivi a prezzi più alti. Sapete che c'è stata la polemica anche di tutti quei negozi all'interno anche di centri commerciali e di alcune insegne della grande distribuzione che hanno deciso di non metterle più in vendita perché ci andavano in perdita. Per la verità è successo anche in diverse farmacie, adesso forse la situazione potrebbe un pochino tranquillizzarsi. A conti fatti si può dire che il provvedimento sia stato efficace, quello disposto appunto a livello centrale che ha detto oltre a questo prezzo chiaramente garantiamo ai cittadini che non si andrà. Nella maggior parte dei casi le mascherine chirurgiche, fa sapere Altro Consumo, vengono vendute al prezzo concordato. Il dato registra un calo dei prezzi di questi dispositivi che a metà aprile si attestava intorno all'euro e 85 centesimi. Secondo l'associazione, le criticità di questi dispositivi continua ad essere l'approvvigionamento. Effettivamente capita che magari si vada nella farmacia di fiducia e non si trovino e si debbano appunto prenotare, quindi ritornare magari perché insomma abbiamo fatto la prenotazione presso il nostro centro farmaceutico di fiducia. Un'altra notizia carina che volevo darvi riguarda una risposta alla rubrica dell'esperto risponde che si trova oggi appunto sulle Sole 24 Ore. È un tema che riguarda tantissime famiglie italiane che ci chiedono puntualmente di dare chiarimenti su questi aspetti. Allora, nella sostanza, una famiglia ha chiesto: abbiamo fatto richiesta del bonus babysitter, il voucher di 1000 euro previsto dal decreto Cura Italia. Al momento della richiesta, ci racconta questa non so se sia una mamma o un papà, comunque questo, questa famiglia, ho correttamente dichiarato che non c'era alcun genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, quindi NASPI, cassa integrazione, eccetera. Prossimamente però il mio datore di lavoro chiederà per noi dipendenti, in questa azienda siamo 6 persone in tutto, la cassa integrazione. Allora, quest'ultima mi sarà concessa nonostante la richiesta del bonus babysitter oppure no? Preciso che non ho ancora ricevuto il voucher e preferirei senza dubbio accedere all'ammortizzatore sociale che chiederà il mio datore di lavoro anche rinunciando al bonus. Cosa risponde l'esperto? Risponde, che la fruizione del bonus babysitting purtroppo non è compatibile con le misure di sostegno al reddito erogate a favore di uno o dell'altro genitore. Lo ha precisato l'INPS in una circolare, se la volete leggere è la 44 di quest'anno. Questa prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e quindi il bonus, se eventualmente è stato percepito, dovrà essere restituito. In ogni caso, se non è ancora stato percepito, probabilmente non arriverà, proprio perché appunto incompatibile con l'ammortizzatore sociale. Direi che ci fermiamo, Carmelo. Allora, vi ricordo, nella seconda parte del programma parliamo del BTP Italia. Conoscete il funzionamento di questo nuovo strumento per il pubblico dei piccoli risparmiatori? Il collocamento parte lunedì prossimo, è un'emissione speciale prevista in occasione dell'emergenza Covid-19. Avete dei dubbi, domande? Avete tutta l'opportunità di farcene questa mattina all'800 24 00 24. Adesso sentiamo un po' chi è che mi lancia con le borse senza Mauro. A questo punto andiamo ad ascoltare le borse. Di denari. Investire informati. BTP Italia, speciale Covid. Eh sì, come ampiamente preannunciato già da settimane, il Tesoro lo ha già appunto comunicato ampiamente, parte da lunedì 18 maggio il collocamento del nuovo BTP Italia, un'emissione speciale legata all'emergenza Covid-19 con un sottotitolo particolare, l'investimento che ci sostiene. Allora, per tutti gli amici ascoltatori che da tempo ci stanno già chiedendo come funzionerà, quali differenze ci sono rispetto al passato, abbiamo ricostruito la genesi e lo spirito di questa operazione nella bella scheda che ci ha lasciato il nostro Mauro Meazza. Questa 16ª puntata del BTP Italia capita in una fase difficilissima con il mondo, l'Europa, l'Italia nella stretta della pandemia. Però a guardare negli archivi non è che il debutto di questo titolo di Stato sia avvenuto in circostanze tranquille, quindi il suo ritorno quest'anno sembra adeguato al momento. Il primo BTP Italia si presentò lunedì 19 marzo 2012, giorno di San Giuseppe, festa del papà, primo giorno di collocamento, con diverse novità e quindi altrettante incognite, possibilità di acquisto anche senza passare per gli intermediari, ma i risparmiatori apprezzeranno, ci si chiedeva? Premio fedeltà per chi l'avesse mantenuto in portafoglio tutta la durata, allora fu di 4 anni e anche questo era un debutto, e poi tutela dall'inflazione, cedole ogni semestre. In quello stesso giorno, 19 marzo, il Sole 24 Ore titolava «Il fisco si adegua alla crisi». Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Gli italiani digerivano faticosamente la repentina riforma delle pensioni varata a dicembre, con decreto legge. Tra giugno e luglio sarebbe arrivata la riforma del lavoro e pochi giorni prima, di quel 19 marzo, l'Istat aveva certificato per l'Italia la condizione di recessione. Ah, scusate, si lavorava anche a una legge delega per riformare il fisco, ma questo è uno di quei cantieri eterni che neanche la Salerno-Reggio Calabria dei bei tempi. Ebbene, con questo scenario turbolento, il primo BTP Italia raccolse 7 miliardi e mezzo. La possibilità di acquisto diretto, online, diede un contributo importante al successo e a luglio Mario Draghi, alla guida della Banca Centrale Europea da nemmeno un anno, pronunciò il suo famoso «The ECB» is ready to do whatever it takes a difesa dell'euro. And believe me, it will be enough. Forse per questo, o forse no, per tutta l'estate Giorgia duettò con Jovanotti cantando «Tu mi porti su, sto imparando a volare». Tu mi porti su, sto imparando a volare. Sto imparando a volare. Sempre super brillante il nostro Mauro Meazza, ha costruito in questa scheda il percorso fatto dal BTP Italia dalla sua nascita ai giorni nostri. Allora io ringrazio per essere ritornato con noi il dottor Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. Buona giornata dottor Iacovoni, le è piaciuta la scheda? Buongiorno, eccoci, sì, qua. Molto interessante. Bene, grazie. Ti sentite? Sì, sì, la sentiamo. Stamattina la tecnologia ci sta venendo un po' addosso, è un lunedì complicato come spesso capita. Saluto e ringrazio per essere con noi anche Carlo Benetti, market specialist di GAM Italia, SGR e autore della newsletter L'Alfa e il Beta. Buongiorno dottor Benetti. Buongiorno a lei e all'ascoltatrice e agli ascoltatori. Ottimo, dottor Iacovoni, come già immaginavamo, come già sta succedendo da qualche giorno, sono molte le domande che i nostri ascoltatori stanno facendo su questa operazione che parte lunedì e quindi dobbiamo rifare un po' la descrizione. Ci avevamo già pensato qualche settimana fa, ma visto che siamo ormai a ridosso del collocamento che ci sarà lunedì prossimo, forse vale la pena ricordare i pro e i contro di questo strumento, perché è una valutazione che soprattutto devono fare i piccoli risparmiatori se dai prossimi giorni sceglieranno di fare una riflessione appunto sull'investimento o meno in questo nuovo titolo di Stato. E quindi noi oggi ci assumiamo insieme a lei questo compito di spiegare a tutti le caratteristiche di questo strumento, considerato che molti già lo conoscono perché hanno già avuto altre 15 occasioni in passato appunto di sottoscrivere il BTP Italia. Ma questa operazione è accompagnata proprio da uno spirito diverso, da una filosofia diversa, da una necessità del tesoro italiano appunto diversa, e di conseguenza un po' diverse sono anche le caratteristiche del prodotto. Dottor Iacovoni, da che cosa vuole partire? Ma io partirei da quest'ultimo punto che lei giustamente ricordava. Diciamo, è vero che il BTP Italia è uno strumento ormai molto noto al grande pubblico risparmiatori italiani, e anche al pubblico più ampio degli investitori istituzionali nazionali e internazionali, però è vero che questa emissione si caratterizza per il fatto che va a contribuire alla copertura finanziaria dell'extra deficit che si sta determinando quest'anno in ragione ovviamente della crisi da coronavirus che stiamo tutti quanti vivendo. E quindi, come ben sappiamo, il governo ha varato primo decreto a marzo, per cui ha chiesto al Parlamento di poter adire a un extra deficit. Poi, come sapete, in queste ore è in preparazione il decreto rilancio, sì. Decreto, esatto, che peraltro sta anche ben più ampio di dimensioni, ma per questo decreto è stato già dato dal Parlamento al Governo l'autorizzazione a un ulteriore deficit per l'anno 2020. Questi deficit si determinano per via del fatto che aumentano le spese, in particolare, come tutti sappiamo, nel primo decreto Cura Italia c'era un importante pacchetto che riguardava le spese per il settore sanitario e per la protezione civile in funzione di supporto al settore sanitario. C'era tutto un pacchetto molto ampio sugli ammortizzatori sociali, in particolare con la cassa integrazione ordinaria e la cassa integrazione in deroga. Poi c'erano gli emolumenti previsti per il settore autonomo, e quindi diciamo sulla parte lavoro e la parte sanità erano due pacchetti molto importanti. Poi ricordo che c'erano anche altri provvedimenti, come un primo provvedimento per la questione delle garanzie statali da mettere a disposizione del sistema bancario per la concessione di liquidità alle imprese. Peraltro questo è un tema che poi è stato ripreso nel decreto successivo, nel decreto liquidità del mese di aprile. Quindi diciamo, noi quello che andiamo a fare con questo titolo è a coprire questo extra deficit, e quindi a coprire specificatamente tutte queste spese di cui abbiamo parlato. Certo, molti ascoltatori, lo dico già dottore Iacovoni, ci così un po' stimolano in maniera provocatoria, dice: ma ne avete già parlato settimana scorsa, perché tornate a farlo? Ci sembra insomma un'operazione di sostegno al tesoro, ma anche... Allora, il punto è che proprio siccome la finalità è molto delicata quest'anno, a noi sembra molto importante invece fare questa operazione di totale trasparenza e correttezza nei confronti dei risparmiatori, perché come per tutte le volte in cui si fanno delle scelte di investimento occorre avere le idee molto chiare su come funzionano gli strumenti, in questa fase particolarmente delicata a noi sembra invece molto importante importante è che il Tesoro lo venga a spiegare anche un'altra volta, possibilmente infatti li avremo con noi anche lunedì prossimo, e questo è un tema importante perché, dottor Iacovoni, è forse proprio il momento più idoneo per instaurare questo dialogo fra Stato e cittadino e, se vogliamo, formare anche un po' una nuova generazione di bot people, no? È una forse circostanza storica irripetibile da questo punto di vista. Ma certamente, diciamo che è chiaro che negli anni l'industria finanziaria e i comportamenti dei risparmiatori sono evoluti e naturalmente noi abbiamo avuto dei fattori strutturali molto importanti di medio termine che hanno determinato una graduale riduzione della presenza diretta dei risparmiatori italiani, dei risparmiatori domestici sui titoli del debito, perché chiaramente sono subentrate tutta una serie di appunto innovazioni del settore finanziario che consentono, con diverse forme di risparmio, chiamiamolo gestito, di tipo diverso, di poi arrivare comunque al debito. Però è vero anche che questa riduzione si era assestata intorno a una quota intorno tra il 10 e il 15% a partire dagli anni dell'euro in poi, ma oggi ci troviamo una quota molto, molto più bassa, questo lo accennavate anche nelle vostre introduzioni, e una quota molto bassa dovuto al fatto che poi negli ultimi anni i tassi sono andati calando ulteriormente e sono calati soprattutto su quelle scadenze non normalmente molto apprezzate dal pubblico retail che acquista direttamente i titoli, quindi parliamo di titoli molto brevi o di una scadenza fino a 3, 4, 5 anni. Esatto, abbiamo sperimentato anche il terreno negativo dei rendimenti dei titoli di Stato, che era proprio una condizione totalmente mai vista e quindi che ha molto generato effettivamente molti interrogativi nei piccoli risparmiatori. Prego, dottor Iacovoni. Assolutamente. Qui però la cosa importante è che abbiamo uno strumento che è molto adatto per l'investimento diretto del retail, perché ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono molto, molto facilmente apprezzabile dal punto di vista della remunerazione che riesce a dare e di come poterlo gestire durante la sua vita. Io infatti ricordo che l'investitore lo può comprare all'emissione nei famosi giorni, quindi abbiamo detto all'inizio, il 18, il 19 e il 20 maggio, lo compra senza commissioni, lo può comprare recandosi fisicamente in banca, all'ufficio postale o attraverso sistemi digitali, quindi con online banking. Sì. Esatto, però poi stiamo tenendo conto della fase molto particolare che stiamo vivendo in questo periodo e quindi sappiamo che molte banche stanno comunque affrontando anche modalità intermedie, di acquisto, che consentono sostanzialmente, mettendosi d'accordo col proprio referente in banca, di poter fare prenotazioni via telefono, via mail, ci sono diverse modalità proprio di venire incontro. Quindi c'è una grande trasparenza nella modalità quindi di acquisto, esiste naturalmente un mercato secondario, Tesoro si è sempre vantato della capacità di avere strumenti finanziari circolanti che abbiano un buon grado di liquidità, si intende la facilità con cui si comprano e si vendono i titoli. E quindi chi compra oggi BTP Italia sa di poter contare sul mercato secondario, se domani, tra un anno, due anni, ha necessità impreviste di dover dismettere il titolo e riprendere la liquidità, e quindi c'è un mercato funzionante che gli consente di fare questo. Però se poi invece decide di tenere il titolo fino a scadenza, fino al maggio del 2025, avrà la possibilità di beneficiare anche di un premio aggiuntivo che quest'anno, questa edizione, chiedo scusa, BTP Italia è stato significativamente accresciuto, è stato portato appunto all'8 per mille, e quindi ci sono tutta una serie di condizioni che consentono di effettuare un investimento in ampia sicurezza, in ampia trasparenza. Credo due aspetti che in questi ultimi anni, per tutta una serie di vicende italiane, sono assolutamente rilevanti per l'investitore che appunto acquista direttamente dei titoli. Dottor Iacovoni, la interrompo perché ci dobbiamo fermare perché abbiamo la nostra pausa. Anticipo già alcune domande che stanno facendo gli ascoltatori: quando stacca la cedola questo BTP Italia? È un titolo pluriennale, quindi le stacca come gli altri BTP, non c'è niente di nuovo rispetto a questo. Sul tema del rendimento vi anticipo già che il rendimento minimo garantito, come per tutte le altre emissioni, se si parte di lunedì, il rendimento minimo garantito viene reso noto dal Tesoro il venerdì precedente, quindi queste domande le possiamo rispondere qua velocemente. crescente aspettative delle tesoro. Adesso il dottor Iacovoni ce le ribadisce e magari gli ammetto anche un pochino di pepe, poi lo sentirò su questo punto. Il mercato si chiede quanto il tesoro avrà bisogno di emettere quest'anno. Io penso che dipenderà un po' anche da come andrà questa operazione. Ce ne sono altre in programma anche prima dell'estate, entro luglio. Vedremo adesso quanto il dottor Iacovoni può anticiparci rispetto a questo. C'è poi il tema dell'inflazione, la protezione dell'inflazione, che è una caratteristica di questo prodotto, e adesso su questo voglio andare a stuzzicare un po' invece l'altro nostro ospite, che è Carlo Benetti. Tutto questo però non subito, perché? Tutto ciò premesso, il traffico. Due di denari. Investire informati. BTP Italia, speciale Covid. Allora, non abbiamo ancora spiegato le caratteristiche essenziali del nuovo BTP, sono nella scheda, le abbiamo dette 10 volte, è un titolo che ha una durata di 5 anni, un premio fedeltà dell'8 per 1000, non esiste, dottor Iacovoni, il lotto minimo, uno può comprarne 500 euro, 1000 euro, 2000 euro, 10.000 euro, non mi pare che ci sia questa caratteristica, non me la ricordo. Sì, c'è un lotto minimo. I 1000? C'è un lotto minimo di 1000 euro. I 1000 euro, ecco, sì, mi scusi, questo non me lo ricordavo, però insomma queste sono le caratteristiche. È uno strumento molto semplice, poi è indicizzato all'inflazione e quindi è un titolo che praticamente ci proteggerà nel caso in cui questa dovesse rialzare la testa. Viviamo una condizione economica straordinaria, al momento viviamo in una condizione di inflazione estremamente bassa, ma chissà che cosa ci aspetta dietro l'angolo. Carlo Benetti, buongiorno. Di nuovo. Eccoci qua, buongiorno. Allora, prima domanda. In realtà non è certo la prima volta che uno Stato emette un titolo destinando a finalità esplicite e specifiche come in questo caso. A che tipo di lezione ci rimanda questa operazione che il Tesoro è pronto a lanciare da lunedì? Ma questa è una bella domanda, perché soprattutto per il debito pubblico italiano, visto che lo abbiamo inventato noi, debito pubblico nasce, le prime forme di debito pubblico sono nelle municipalità italiane del Medioevo, parliamo del 1100-1200. Il debito serve per mobilitare risorse, per finanziare la spesa pubblica, è stato ricordato da voi. Ora, lei ha fatto riferimento anche alla nostra storia, io direi che proprio nella storia moderna, dall'Unità d'Italia a oggi, da Crispi a oggi, passando per Einaudi, per Corbino, si tende a distinguere il debito buono dal debito cattivo. Se mi passa il paragone un po' grossolano, come quello quando parliamo del colesterolo, che noi non specialisti, grosso modo parliamo di buono e cattivo, in realtà la questione riguarda le proteine, quelle ad alta densità che tolgono il colesterolo dalle pareti delle arterie. Ecco, il debito pubblico è un po' come il colesterolo per l'organismo, cioè un grasso necessario. Il debito buono è un po' come le proteine ad alta densità che fanno bene, è destinato alle spese straordinarie o ai grandi investimenti. Ora, il BTP Italia, ed è stato ricordato anche dal dottor Iacovoni molto bene, ha questa caratteristica specialissima, va a finanziare la spesa sanitaria. Ora, tecnicamente la spesa sanitaria è spesa corrente, ma in questa fase così dolorosa e così eccezionale, non credo ci sia discussione sulla bontà di questo tipo di impegno del debito, questo tipo di emissione che va a spesa pubblica, ma è spesa buona, è spesa sanitaria, non c'è bisogno di spendere troppe parole in questa fase. Allora, intanto alcuni ascoltatori ci chiedono anche di chiarire meglio l'aspetto del legame con l'inflazione. Emanuela ci ha riscritto anche la settimana scorsa e insiste su questo aspetto: a chi consigliereste di acquistare il BTP Italia? Noi, Emanuela, non consigliamo niente a nessuno. Noi abbiamo un altro compito, quello di raccontarvi quello che succede e di darvi possibilmente gli strumenti per fare delle scelte coerenti con i vostri bisogni, con la vostra propensione al risparmio, la vostra attitudine o meno al rischio. Io non consiglio a nessuno di fare niente, non consiglio direttamente una sottoscrizione di un prodotto rispetto ad un altro, perché non è il nostro compito, non siamo delle SIM, non siamo dei consulenti finanziari. Vi accompagniamo con l'informazione. Se poi la sua necessità è quella di capire come funzionerà effettivamente questo titolo di Stato in rapporto all'inflazione, che adesso non c'è, allora uno dice: ma che ha senso ha agganciarla a questo parametro? Dottor Benetti, tra l'altro l'economista ed ex presidente della Consob, Luigi Spaventa, l'aveva chiamata l'imposta sui poveri, poi Luigi Einaudi l'aveva definito l'elemento disgregatore della società. L'inflazione è sempre un po', come dire, quell'elemento di ragionamento che interviene in ogni circostanza in cui parliamo di come investire e come risparmiare, perché è quel piccolo topolino che rosicchia i rendimenti dei nostri risparmi molto faticosamente accantonati, però non è un elemento che noi sempre consideriamo. In prospettiva, e considerato anche il titolo di Stato di cui parliamo questa mattina, quanto dobbiamo tenere in considerazione questo convitato di pietra della nostra conversazione? È una bella domanda, anche questa è una bella domanda, e ha senso per un ascoltatore, per un investitore, chiedersi: ma che senso ha agganciare una emissione a una grandezza economica, l'inflazione, che sembra scomparsa dal radar? Lei l'ha definito il convitato di pietra. Il comitato di pietra nel Don Giovanni, perlomeno alla fine dell'opera, si presenta. Oggi noi sono 10 anni che il convitato di pietra non si è presentato, non abbiamo una inflazione, tantomeno un'inflazione allarmante. A dispetto anche della liquidità messa dalle banche centrali in tutti questi anni nel sistema. Ora, l'aiuto in questa esperienza straordinaria che stiamo facendo, tremenda, della pandemia, l'aiuto al lavoro, ai redditi o al sistema sanitario passa inevitabilmente per livelli di debito più elevati. Allora, in questo caso, l'inflazione potrebbe essere il coniglio che esce dal cilindro, cioè diminuire il peso reale del debito senza quei costi che sono i costi di più tasse o meno spesa pubblica. È già accaduto, noi siamo già passati da una fase del genere con un forte debito il cui peso è stato abbattuto dall'inflazione, sto parlando del dopoguerra. Però in quei decenni l'inflazione era compensa, che è la tassa dei poveri, come lei ha ricordato la definizione del grande Luigi Spaventa. Ecco, era compensata da crescita della produttività e crescita del benessere. Sarà così anche questa volta? Questo è un punto di domanda che lascio alla riflessione. Però c'è un'altra considerazione più tecnica. È vero che l'inflazione non sia un problema, un argomento nell'agenda del prossimo futuro, però dell'immediato futuro. Però alcuni ricercatori, alcuni economisti hanno trovato che in una popolazione in cui aumenta il tasso di dipendenza, e mi spiego, cioè quella porzione di popolazione composta da coloro che non lavorano, cioè i ragazzi che studiano e i pensionati, allora in questo caso l'aumento di questa componente di persone o molto giovani o anziane che non lavorano ha effetti sul tasso reale e quindi ha effetti inflazionistici. Allora, se non è un problema in agenda oggi, certo, non è escluso, per questi due motivi, uno politico, l'abbattimento del debito senza dolore o con poco dolore, e per motivi demografici, possa essere un appuntamento che da qui a qualche anno possa ripresentarsi. In questo senso il BTP Italia, agganciando il rendimento reale alla dinamica di inflazione, può pararsi da questo rischio. Certo. Dottor Iacovoni, ci mancano 2 minuti e mezzo prima della chiusura, poi l'ho ribadito agli ascoltatori, lei sarà di nuovo con noi lunedì prossimo. Vuole aggiungere qualcos'altro rispetto a questo punto analizzato da Carlo Benetti? E mi può rispondere sul punto: il mercato si chiede quanto emetterete quest'anno, dipenderà anche da come andrà questa operazione, poi sicuramente ne farete anche delle altre straordinarie, ma è possibile darci un'informazione su questo? E sul primo punto volevo agganciarmi anche a quanto veniva detto dal dottor Benetti, per anche far presente questo aspetto meramente finanziario, che però il fatto che oggi le aspettative di inflazione sono comunque basse fa sì che il tasso nominale e il tasso reale siano piuttosto allineati, quindi acquistando il BTP Italia diciamo, si acquista un tasso reale interessante, quasi allineato a un tasso nominale di un titolo nominale normale, ma con il più che se appunto l'inflazione poi riparte, l'investitore si trova protetto il valore reale del proprio investimento durante gli anni. Questo mi pare un aspetto, un plus, diciamo, molto, molto rilevante da tenere conto per questa, in questa particolare condizione di mercato. Per quanto riguarda la seconda domanda, teniamo conto che noi abbiamo avuto già due decreti di allargamento del deficit che avranno un impatto chiaramente sul fabbisogno di cassa. I due decreti insieme sostanzialmente arrivano a montare intorno ai 90 miliardi che si aggiungono al precedente fabbisogno, dopodiché dovremo tenere conto anche dell'effetto macroeconomico, certo, sulle entrate e sulle uscite fino a fine anno, diciamo. Quindi adesso fare una previsione precisa di quanto andremo a finanziare l'anno è un po' difficile, però intanto partirei da questi due decreti e da qualche stima da fare sull'impatto macroeconomico. Ovviamente l'esito di questo BTP Italia sarà ovviamente importante per capire le nostre poi necessità di finanziamento, ma noi, diciamo, insieme a BTP Italia ovviamente poi porteremo sul mercato le nostre decisioni ordinarie, l'altro strumento di cui lei accennava anche dedicato al retail, e quindi di lì a poi tareremo opportunamente le nostre decisioni, ma è chiaro che il contributo anche di questa emissione sarà importante come tutte le altre. È un work in progress. Ricordo peraltro che tra le varie emissioni del passato ci fu quella molto importante novembre 2013, il Tesoro riuscì a raccogliere 22 miliardi, nell'aprile del 2014-20 ce ne sono state altre che hanno consentito una raccolta molto inferiore, dipende chiaramente anche il contesto in cui il risparmiatore si trova e che bisogna. 10 secondi, dottor Iacovoni, il rinvio di Moody's mette il Tesoro in una condizione di maggiore tranquillità? Ma diciamo che la decisione non era in attesa, in quanto Moody's aveva qualche settimana fa pubblicato una cosiddetta credit opinion in cui diciamo non valutava esserci le condizioni per un intervento di decisioni sul rating immediato, visto la condizione particolarissima che stiamo vivendo noi come tutti quanti gli altri paesi, e quindi in questo senso non rappresentava, e credo anche per il mercato non rappresentasse un'enorme novità. Naturalmente nei prossimi mesi saremo tutti impegnati, oltre che ovviamente a garantire la raccolta e la provvista per il Tesoro, anche a delineare chiaramente le linee di rientro del debito, a convincere le agenzie di rating che non ci devono bocciare. Grazie a Davide Iacovoni per essere stato con noi, ci risentiamo lunedì. Grazie a Carlo Benetti. Due di denari termina qui, io fra un po' ritorno con voi con le borse e a domani con Mauro Meazza. Buona giornata a tutti.